Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Fiat, Scajola ribadisce, ci sono più offerte per Termini Imerese. Ciancimino Junior di nuovo in aula a Palermo, Forza Italia dice fu il frutto della trattativa Stato-Mafia. Frattini, servono nuove ed efficaci sanzioni contro l'Iran. Parte molto male la Coppa America, tutto fermo a Valencia per troppo poco vento. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano la vicenda Fiat con le nuove dichiarazioni di questa mattina del ministro Scajola. Ce ne parla in diretta da Roma. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il nuovo incontro tra governo Fiat e sindacati è fissato per il prossimo 5 marzo, poco meno di un mese dunque. Sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico prenderanno corpo alcune proposte che dovrebbero garantire un futuro al polo produttivo di Termini Imerese. L'obiettivo di Palazzo Chigi è quello di garantire gli attuali livelli occupazionali, una cosa è certa, lo ha confermato lo stesso ministro Scajola, la Fiat dal 2012 uscirà da Termini Imerese, ma ci sono diverse proposte, 8-10 ha detto Scajola, sentiamo. Con la Fiat il discorso su Termini è chiuso. Ma la Fiat concorda con noi che agevolerà, non ostacolerà, aiuterà una soluzione diversa e abbiamo diverse offerte, 8, 9, 10 offerte che stiamo valutando al Ministero dello Sviluppo Economico, che presenteremo il 5 di marzo al tavolo dell'auto che abbiamo inserito al Ministero dello Sviluppo per valutare quale migliore di essa possa garantire i posti di lavoro. Questo lo scenario dunque per Termini Imerese, secondo il ministro Scajola ai microfoni Mediaset dello stabilimento siciliano. Ha parlato anche la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha confermato ci sono delle proposte degne di attenzione. Sentiamo allora. Termini Imerese purtroppo è uno stabilimento che per problemi logistici, per problemi di efficienza, è uno stabilimento che non riesce a stare in piedi. Adesso il vero tema è reimpiegare le persone, non perdere i posti di lavoro in un momento delicato come questo. Quindi ci sono delle proposte, bisogna scegliere proposte concrete, vere, che possono stare in piedi, che possono essere di mercato. Mi pare che però tra le 8 e 9 ci siano alcune iniziative degne di attenzione. Oggi intanto nello stabilimento siciliano, in tutti quelli della Fiat e dell'indotto, è giornata di assemblee. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Vincenzo Miglietta da Roma. E parliamo sempre di auto, ma andiamo in Giappone. Ancora guai, grossi guai per la Toyota. La notizia non è ancora ufficiale, ma è praticamente sicura. Domani la Toyota annuncerà un richiamo di massa per riparazioni che riguarda il modello Prius di ultima generazione per i problemi di sicurezza all'impianto frenante. Un richiamo del modello più venduto della casa che dal Giappone si estenderà agli Stati Uniti, all'Europa e ad altri mercati per un totale di oltre 300.000 vetture. Si tratta di un altro durissimo colpo all'immagine della società, che sta già richiamando oltre 8 milioni di vetture su 8 modelli per problemi al pedale dell'acceleratore o per la potenziale interazione pericolosa tra pedale e tappetino sottostante. E non è finita qui. Il richiamo dovrebbe estendersi anche al modello ibrido di alta gamma venduto sotto il marchio Lexus. È un altro modello ibrido per ora commercializzato solo in Giappone, in quanto utilizzano un sistema frenante simile a quello della Prius. Benché anche il numero uno della società, Akio Toyoda, si sia finalmente scusato in prima persona venerdì scorso, la reazione della Toyota alla scoperta di problemi di sicurezza nelle sue vetture continua a essere criticata da molte parti come tardiva e insufficiente. Oggi alla borsa di Tokyo il titolo Toyota ha perso un altro 1%, in linea con una borsa dove l'indice Nikkei è tornato sotto i 10.000 punti, penalizzato dal rialzo dello yen. Stefano Carrer, GR24, Sole 24 Ore, Tokyo. Ed ora a Palermo, perché questa mattina è tornato a parlare in aula Ciancimino Junior e le sue accuse sono come sempre pesantissime. Secondo Massimo Ciancimino, Forza Italia era il frutto della cosiddetta trattativa fra Stato e mafia. Di fatto lo stesso Berlusconi, non come soggetto ma come entità politica, era il frutto di tutti questi accordi. Deponendo davanti al Tribunale di Palermo al processo a carico del prefetto Mario Mori e del generale Mauro Binu, Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso della città, ha parlato pure di una presunta lettera che nel 1994 Bernardo Provenzano avrebbe voluto far pervenire a Silvio Berlusconi e nella quale faceva riferimento a un triste evento come il possibile sequestro di uno dei figli del cavaliere o altre gravi ritorsioni per richiamare il partito e farlo tornare sui propri passi. Giangimino Junior ha poi sostenuto che nel 2006, quando era agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per riciclaggio, ricevette una visita di una persona dei servizi segreti accompagnata da due carabinieri che gli disse di non parlare della trattativa e dei rapporti con Berlusconi e di aver ricevuto rassicurazioni che nessuno gli avrebbe mai fatto domande. E in effetti le prime domande sulla vicenda a Massimo Giangimino sono state fatte nel 2008. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Resta fermo a 5 morti, 12 feriti e un numero imprecisato di dispersi. Il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri in una centrale elettrica di Middletown, nel Connecticut. La Clean Energy Plant è in parte crollata e l'incidente è dovuto forse ad una fuga di gas avvenuto mentre il sito era ancora in fase di collaudo. E si chiama Al Santo Stefano, il capo dei pompieri che coordina i soccorsi a Middletown, un cognome siciliano, come i siciliani sono i cognomi Mangano, Di Mauro, solo per citarne alcuni, Di Melilli per la precisione. In tanti infatti emigrarono ad inizio secolo da questo piccolo comune alla volta degli Stati Uniti, come racconta il sindaco Pippo Sorbello, intervistato da Katia Caramelli. Trattandosi di una multinazionale che realizzava questa mega struttura di 620 megawatt di potenza, molto probabilmente il management e tutta l'organizzazione delle persone arrivava da fuori e non erano interessati cittadini di Middletown o dei paesi limitrofi a quel sito. Dai dati che abbiamo, molti nostri concittadini di Melilli hanno telefonato ai parenti e non si registrano persone interessate a questa tragedia. Un terzo dei cittadini di Middletown sono di origine merillese. Questo processo di emigrazione inizia agli inizi del Novecento, siamo alla quarta generazione e sostanzialmente questo gemellaggio che abbiamo istituito all'inizio degli anni Ottanta, nel 1981, si è consolidato nel tempo. Sostanzialmente ogni 2-3 anni o l'amministrazione di Middletown arriva a Melilli o noi andiamo lì. Noi per esempio abbiamo programmato a fine maggio o giugno andremo lì in Middletown. E nei fatti su 45.000 abitanti 15.000 sono di origine merillese. Il sindaco Giuliano è origine merillese, il capo dei Vigili del Fuoco Santo Stefano è di origine merillese. L'anagrafe di Melilli è parallela a quell'anagrafe di Middletown, perché tutti i cognomi che noi abbiamo come famiglie a Melilli si ripetono a Middletown. E restiamo in America perché l'incidente alla centrale è avvenuto in un giorno che tiene incollati di fronte alla TV milioni di americani. Stiamo parlando del Super Bowl, che ha visto la prima vittoria per i New Orleans Saints, che hanno battuto a Miami gli Indianapolis Colts. Una vittoria importante per New Orleans, ma anche un'ottima ribalta per Barack Obama. Perde terreno nei confronti dell'opinione pubblica e Barack Obama decide una grande mossa strategica. Un'intervista esclusiva con la CBS in onda nello show che precede la finalissima dell'appuntamento sportivo dell'anno. We are seeing the corner turned on the economy growing again. L'economia ha voltato l'angolo e ha ripreso a crescere, ha annunciato all'anchor Katie Couric e ai 100 milioni di spettatori armati di hot dogs e boccali di birra per il calcio d'inizio della partita tra le squadre di New Orleans e di Indianapolis. Obama ha parlato anche della riforma sanitaria e della volontà di collaborare con l'opposizione. Un'iniezione di ottimismo, perlomeno nelle intenzioni, come quella arrivata dalla vittoria alla città di New Orleans. Nella città in cui ancora stanno guarendo le ferite dell'uragano Katrina, il carnevale è cominciato con 9 giorni di anticipo. In Louisiana, by the way, in New Orleans is back. And this shows the whole world. Siamo tornati, la Louisiana è tornata, New Orleans è tornata, lo abbiamo dimostrato a tutto il mondo, ha esclamato il presidente della squadra, Tom Benson, ricevendo il trofeo Lombardi, la coppa del Super Bowl. Marta Cagnola, GR24, il Sole 24 Ore. E ancora America, perché finalmente questa mattina, dopo un rinvio di 24 ore, il lancio dello shuttle STS-130. 5, we have 3 minutes start, 2, 1... Booster ignition and lift off of Shuttle Endeavour. Lancio riuscito per lo Shuttle Endeavour nella missione STS-130. Porta alla Stazione Spaziale Internazionale un equipaggio americano di 6 astronauti e 2 moduli che completano la sezione europea della stazione. Roger, roll, Endeavour. Partito alle 4:14 ore della Florida, per la navetta americana è stato dunque l'ultimo lancio notturno prima del pensionamento previsto per settembre. Gli altri quattro lanci sono tutti programmati di giorno. Con un equipaggio comandato dal veterano George Zamka, lo shuttle porta sulla stazione orbitale i moduli europei Nodo 3, chiamato Tranquility, e cupola, la finestra panoramica, che permetterà agli astronauti di guidare a vista le operazioni del braccio meccanico e di affacciarsi all'esterno della struttura. Entrambi sono stati realizzati dall'Agenzia Spaziale Europea per la NASA e costruiti in Italia dalla Thales Alenia Space del gruppo Thales Finmeccanica. La missione durerà 11 giorni. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. E per le altre notizie d'oltreoceano vi ricordo l'appuntamento con America 24 in onda alle 13:45. Invece noi veniamo un po' più vicini. Dopo anni di battaglie legali, questa mattina avrebbe dovuto prendere il via la 33esima edizione della Coppa America, che vede opposti il defender svizzero Alinghi e lo sfidante statunitense BMW Oracle. Ma la battaglia è ora quella contro il vento, in particolare il vento che non c'è. Lara Bettini ha raggiunto il collega Antonio Vettese, che a Valencia sta seguendo la sfida. Siamo ancora qui ad aspettare il vento. Per gli equipaggi è stato meglio all'alba, sono usciti in mare col buio alle 6:30 per portarsi nella zona di partenza, che è molto lontana dalla città, 25 miglia. Condizioni climatiche, vento a parte? Beh, il cielo è coperto, c'è umido e anche abbastanza freddo. Di solito qui a Valencia è molto più freddo. Ragionevolmente si riesce in giornata a vedere finalmente questa partenza, o secondo quello che insomma sono le ultime indicazioni bisognerà rinviare tutto? Ma lo speriamo, e sembra che il vento possa stabilirsi e soffiare ad un'intensità sufficiente a disputare la regata. Grazie Antonio e buona permanenza in mare in attesa. Grazie, grazie, ciao. E riprendiamo dalla pagina degli esteri. Incontro questa mattina a Roma fra il ministro Frattini e il segretario di Stato americano alla difesa Robert Gates, in primo piano l'Iran. Più sanzioni contro Teheran. C'è sintonia tra Italia e Stati Uniti su come affrontare lo spinoso dossier Iran. Questa mattina nel faccia a faccia Frattini-Gates è stata ribadita in una nota congiunta l'urgenza di un ampio raccordo internazionale, così come di ulteriori pressioni per impedire la prospettiva destabilizzante di un Iran potenza nucleare. Dichiarazioni arrivate poche ore dopo l'ennesimo cambio di marcia di Ahmadinejad, che se ieri aveva ordinato di procedere con l'arricchimento dell'uranio fino al 20%, livello ulteriore rispetto a quello già disponibile, oggi dice che Teheran è pronta a cooperare con la comunità internazionale. Ma per Frattini non è possibile rincorrere il presidente iraniano in continue dichiarazioni che cambiano e che servono solo a prendere tempo. Basta con questa politica dilatoria. Quello che conta, dice il responsabile della Farnesina, sono i fatti. Noi vogliamo un negoziato serio con Teheran, ma finora non abbiamo ricevuto risposte. Alessandra Schepisi, GR24, Sole 24 Ore, Roma. Dura presa di posizione del Papa sulla pedofilia. Alcuni membri della Chiesa hanno violato i diritti dell'infanzia, un comportamento che la Chiesa non manca e non mancherà di deplorare e condannare. Lo ha detto Papa Benedetto XVI ricevendo questa mattina i partecipanti all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia. La tenerezza e l'insegnamento di Gesù, ha aggiunto il Papa, che ha annunciato per le prossime settimane una lettera pastorale ai fedeli irlandesi dopo alcuni rapporti giudiziari su abusi compiuti da religiosi, hanno sempre costituito un appello pressante a nutrire nei loro confronti profondo rispetto e premura. Andiamo ora in Ucraina. Sarà dunque il leader filorusso Viktor Yanukovych il prossimo presidente. Yulia Tymoshenko parlerà questo pomeriggio ai giornalisti e da quello che dirà dipende il prossimo futuro dell'Ucraina. L'ultima leader rimasta della rivoluzione arancione, primo ministro ucraino, non sembra intenzionata ad accettare l'esito delle elezioni presidenziali che si sono svolte ieri e che a conteggio quasi ultimato assegnano la vittoria a Viktor Yanukovych, il candidato delle regioni orientali filorusse, proprio l'uomo che venne messo da parte dalla rivoluzione arancione 5 anni fa con l'accusa di brogli. Oggi dovrebbe essere il giorno della sua rivincita. Gli osservatori europei sembrano soddisfatti dall'andamento delle votazioni, che vedono Yanukovych al comando con il 48,38% dei voti contro il 46,01% della rivale. È però un margine ridotto che potrebbe dare a Yulia un appiglio per ricorrere a vie legali se riuscisse a provare che parte dei voti è inquinata da frodi. A Kiev Yanukovych ha radunato migliaia di cosiddetti sostenitori che programmano azioni di protesta contro di lei. La commissione elettorale sta per annunciare i risultati finali e si attende il rapporto degli osservatori internazionali. per poter proclamare Yanukovych presidente, manca solo la resa di Yulia Tymoshenko. Antonella Scott, GR24 sulle 24 ore, Kiev. La Lombardia accoglie i primi sopravvissuti del terremoto che lo scorso 13 gennaio ha devastato Haiti. Questa mattina l'arrivo all'aeroporto di Malpensa di 8 feriti, 4 dei quali sono bambini. Saranno poi trasferiti negli ospedali di Milano, Monza e Bergamo. A Bergamo stanno aspettando Honester, 2 anni, e Yves, di un anno più grande. Come ci racconta Claudio Sileo, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Bergamo, al microfono di Cristina Carpinelli. I casi che ci arrivano sono un bambino con una cardiopatia, il secondo invece è una lesione ad un arto inferiore che è tutta da diagnosticare ed eventualmente poi da trattare, e il terzo, quello di neurochirurgia, è invece proprio una frattura della colonna dovuta al terremoto con una lesione, e quindi anche questo è una traumatologia che noi sappiamo gestire, perché abbiamo poi anche la riabilitazione eventualmente. Noi per esempio in pediatria abbiamo pensato di dedicare una cameretta ai due piccoli in modo tale da averli insieme e facilitare anche così gli scambi, per esempio di lingua, di abitudini, di culture, ecco, piuttosto che invece metterli separatamente. Avrebbe compiuto 95 anni il 12 febbraio, è morto nella notte a Roma Antonio Giolitti, nipote di Giovanni Giolitti, fu partigiano, padre costituente e ministro. Prima iscritto al PC, passò al PSI per tornare nelle file del Partito Comunista nell'87 per l'ultimo incarico da parlamentare. Stamattina la nota della Cassazione sugli effetti che potrebbe avere la legge ex Cirielli sui processi di mafia. Ci colleghiamo con Andrea Viali. Sì, Piera, ieri il ministro della giustizia Alfano ha fatto sapere che mercoledì il Consiglio dei Ministri varerà un decreto per correggere gli effetti di questa sentenza, una sentenza che, come dicevi, riguarda la legge Cirielli e che rischia di far scarcerare molti boss che si trovano sotto processo per mafia. Un intervento necessario, quello del governo, ha detto stamattina la stessa Cassazione in una nota che ha accompagnato le motivazioni della sentenza. Ecco, nelle motivazioni si legge che probabilmente quando il legislatore ha approvato la legge Cirielli non si è reso conto del fatto che i reati di mafia aggravati da alcune circostanze sarebbero passati dalla competenza del tribunale ordinario a quella della corte d'assise. Il decreto allo studio del governo manterrà invece ai tribunali la competenza su questi reati, evitando così che le lungaggini per lo spostamento dei processi possano causare rischi di scarcerazione dei mafiosi per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Fate la linea. Grazie ad Andrea Viale da Roma. Immigrazione, arriva come sapete il permesso di soggiorno a punti. Siete d'accordo? Era il tema del nostro sondaggio di oggi. Sentiamo. Superi il test di italiano? Guadagni 22 punti. Conosci la Costituzione? Ne prendi altri 20. Vieni condannato a 2 o 3 anni di carcere, perdi 20 punti. Dovrebbe funzionare più o meno così il nuovo permesso di soggiorno per immigrati che il governo sta studiando. Permesso a punti, con il principio della patente. Ti comporti bene, guadagni crediti, sgarri e accumuli debiti. Dopo 2 anni, se hai messo in cascina 30 punti, guadagni il fatidico permesso di soggiorno. Una proposta che i nostri ascoltatori nel sondaggio di oggi promuovono con il 74% di sì. Duro invece il segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero. Si fa il concorso a punti che avrà un solo effetto: rendere più precaria la condizione dei migranti ed aumentare il numero dei clandestini, perché è del tutto evidente che se uno sta in Italia 3 anni e alla fine gli togli il permesso di soggiorno e quello magari ha venduto casa sua per venire in Italia, non è che torna al suo paese a fare chissà che cosa, rimane in Italia clandestinamente. Bianconero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E parliamo ora di scuola, perché con la riforma delle superiori approvata la scorsa settimana, 40.000 prof in meno, come riporta Il Sole 24 Ore oggi in edicola. La riforma delle superiori prova a cambiare il volto di istituti tecnici, professionali e licei, ma ne alleggerisce anche la struttura. Tra rivisitazione degli ordinamenti, riduzione degli orari e tagli alle compresenze, le scuole superiori mettono sul piatto 15.300 dei 45.300 posti che gli organici della scuola perderanno per strada nei prossimi 3 anni. I primi 27.000 si perderanno al prossimo settembre. Il resto verrà dai primi 2 cicli di istruzione, con la rimodulazione di orari e tempo pieno, e dalla all'accorpamento delle classi imposto a tutti gli ordini di scuola dalla manovra dell'estate 2008. Quando tutti questi provvedimenti andranno a regime sarà l'autunno del 2014. Le forze in campo per l'avvio del nuovo anno conteranno in tutto 89.000 posti in meno e saranno anche più leggere rispetto agli obiettivi definiti dal governo nell'estate di 2 anni fa. Gianni Trovati, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. Sono stati arrestati nel corso della notte presunti responsabili dell'omicidio di un'anziana tabaccaia avvenuto ieri a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La donna era stata uccisa durante una rapina che aveva fruttato 500 euro e alcune stecche di sigarette. E continua purtroppo a salire il numero dei morti a causa delle valanghe nel fine settimana. È stato davvero un weekend nero quello appena trascorso sulle montagne italiane. L'ultima vittima in ordine cronologico è stata recuperata stamani dal soccorso alpino del Veneto. Si tratta di Mirko Cesco, uno scialpinista 63enne travolto dalla neve nel Bellunese. Nella tarda serata di ieri invece è deceduta Bergamo Rita Broggi di 49 anni travolta da una valanga sul Monte Grona nel Comasco. Altre 6 le vittime sempre nel fine settimana dal Piemonte alla Lombardia al Veneto e una decina i feriti di cui uno in gravi condizioni. Si tratta di un 45enne rimasto sepolto ieri da una slavina in Valserina. Stazionarie invece le condizioni di Renzo Pasut, lo scialpinista pordenonese di 48 anni travolto dalla neve nel Bellunese. Resta alta, si parla di livello 4, l'emergenza valanghe. E per evitare queste tragedie, per lo più causate dall'imprudenza e dal mancato rispetto dei bollettini meteo, il governo ha presentato un emendamento al decreto legge sulle emergenze al Senato che prevede il carcere per chi provoca una valanga mortale e 5.000 euro di ammenda per chi fa fuori pista e ignora i bollettini che indicano pericolo. Contrario alle multe al carcere Reinhold Messner, per il quale è una reazione isterica. Con iniziative legislative di questo genere, ha detto Messner, si uccide l'alpinismo. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Una camera carcio, una telecamera a bordo della Renault Clio su cui è morto ieri il CT della Nazionale di Ciclismo Franco Ballerini, mostra le immagini dell'incidente avvenuto all'Arciano, in provincia di Pistoia, e fa sentire le sue ultime parole, le note dettate al pilota prima dello scontro. Il filmato, è un filmato sonoro, è stato sequestrato ed entrerà nel fascicolo aperto dalla procura per capire cosa possa essere successo. Sentiamo ora il ritratto di Ballerini nelle parole di Dario Ceccarelli. Anche adesso, a 45 anni, rispettato e amato CT della Nazionale, tutti lo chiamavano il Ballero. Era un modo per dirgli che di lui ci si fidava, che era una persona per bene, rimasta però con lo spirito di un ragazzo. La morte di Ballerini, una curva, uno schianto, è una frustata anche per chi è abituato ai colpi bassi della cronaca. Intanto perché era un uomo giovane, con una moglie e 2 figli, e poi perché sia come corridore, formidabile vincitore di 2 Roubaix, che come CT ha lasciato il segno. Nel guidare la nazionale, 4 ori al mondiale e 1 all'Olimpiade, aveva ereditato il mestiere da Alfredo Martini, docente di lungo corso all'Università del Ciclismo e della Vita. In questi casi, un po' retoricamente, si dice che chi se ne va lascia un vuoto. Nel caso di Ballerini è proprio vero, perché aveva un dono particolare, ascoltare e poi decidere, sapendo che anche il più scarso può inventare qualcosa di speciale e che il più dotato a volte è fragile come un bambino che impara a pedalare senza rotelle. Insomma, senza dirlo, sapeva fare squadra. In uno sport ultimamente poco credibile, Ballerini era un punto saldo, uno che non sbandava. Non a caso, nei rally faceva il navigatore. Ma la vita, anche coi migliori, fa brutti scherzi. Ed è tutto per questo GR24, che è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Prossimo notiziario alle 14.